Uo, introduzione alla family, fermatis, sentire il mio style EMC, capaci su beat come rapaci sulle prede, in giornate fredde ci puoi trovare a scaldare, su beatbox, livello prox, dry docs, per chi come i red, dick socks, colgo l'occasione per presentare il mio volgo, il mio volto al pubblico, pudico però dico, ti ci vuole l'invito, segui il mio dito, terzo medio come la rima tua, da terza media appunto è puntato, mi presti l'accendino, giusto un canino da accendere, attitudine mordente, attento al mio canino, mi ci appoggi il cammino, o cilo se preferisci, segui i segnali di fumo e lì mi troverai, ai bordi di periferia, questa è la storia mia, non seguo scia, piuttosto la imposto, con quel che conosco, inizio partita, è già il quarto canesto, e giù con me puoi trovarci solo gente che ne sa, e chi sa scassa, se ti gira passa di qua, passala qua, passala, di demonio di me, di me demonio, insano come l'elfo. Fai presto perché il mio concetto non lo ribadisco, me ne infischio, se te lo sei perso sarà per il prossimo disco, ma che dico, perdomi del vizio, già, rimetti vizio tizio, Gaio e Sempronio, ormai sono giù con mai al cielo per il mio stilo, ed io edifico, eretico, su un beat malefico, e maledico il giorno in cui tu idilio amico è cominciato, e ma dico te lo sarei mica accattato per baratto, baratro e ormai distacco, e se tu stai in vetta, guardami, io sto ancora più in alto.